Ciao, sono Francesco, lavoro come freelance nel campo del copywriting, del giornalismo e non solo, e ovviamente, insomma, le mie attività in questo periodo sono un po' ridotte. Penso che questa possa essere un'occasione per leggere e ascoltare in senso ampio. Mattia Torre. Yes, I can. Ora mi piacerebbe moltissimo stare su un terrazzo, magari con un po' di venticello che mi accarezza i capelli. Una cosa lieve proprio, un terrazzo normale, mica chissà cosa. Certo, magari ecco, mi piacerebbe stare in un bel posto, cioè in un posto piacevole, un terrazzo in un posto bello. Sul mare. In un posto bello vorrei stare. Solo, ma andrebbe benissimo. Oppure con una persona, sì. Una ragazza, anche carina. Diciamo bella. Mi piacerebbe stare su questo terrazzo con questa ragazza splendida e bermi una cosa fresca, una cosa qualsiasi. Basta che sia fredda. L'importante è che sia fredda. Champagne. Una coppa. Una flute di champagne accanto a questa, diciamo, modella franco-israeliana. Sì, franco-israeliana, magari con una spiccata sensibilità per la questione palestinese, ma guarda, non fa niente, come vi pare, purché sia bellissima. Bella di una bellezza deve essere da farti venire il magone, che proprio la guardi e dici: ti piace la Sardegna? La Sardegna andrebbe bene. Diciamo Porto Conte in autunno, fine settembre, 24 gradi e mezzo. Ci deve essere il sole, ma anche un certo freschetto, se posso dire. Un maestrale leggero che comunque non temo, perché ho un golf che mi dà quel senso di protezione lieve. Un normale golf, mica che. Un normalissimo golf di Kashmir. Un tre fili, ma che ho da tempo, cioè anche con dei pallini per dire, ma pochi, diciamo due pallini che non si vedono, pallini diciamo minuscoli, che li guardi e dici: e cazzo, però l'ho pagato quanto una macchina questo golf, cioè l'ho pagato come la mia vecchia macchina, perché dietro al terrazzo, che potrebbe essere di un grande albergo, diciamo di un 5 stelle, ma elegante, non sfarzoso, fin de siècle, c'è la mia attuale macchina. Una Maserati MC12 che sto pensando di cambiare perché c'ha sto colore, se posso dire, alla fine è un po' così. Ma intanto mi devo scusare, ci ho ripensato. E più che la Sardegna andrebbero bene le Figi. Che solo la parola Figi ti fa venire un brivido lungo la schiena fino al collo. Che dici Figi e già stai scopando, ma senti una voce fastidiosa che ti dice: perché hai la macchina alle Figi? No, ecco, tu perdonami, non ti preoccupare, fai il bravo che se mi gira dentro la macchina ci ficco un'altra macchina, solo per il fatto che sono un uomo libero, audace, ricchissimo. E io dico a Sophie, ti chiami Sophie? Ah, ti chiami Monique, scusami Monique, ma in questo periodo ho tanti di quei pensieri. Ti andrebbe Monique di fare un giro al tramonto più tardi in barca? Ora non la vedi perché è nascosta da questo promontorio. È arrivata l'altro ieri questa barca. L'ho aspettata 3 anni. Sì, è un Atlantis. L'ho pagata tutta quanta 3 anni fa, perché è una barca così. Josephine, se non ti scoccia ti chiamo Josephine. Prima la paghi, poi in 3 anni te la costruiscono e te la consegnano. Guarda che meraviglia. Guarda come le finestrature interrompono le murate di poppa fondendosi con il parabrezza. Guarda il profilo e ti prego, nota il pozzetto. Guarda come questo benedetto pozzetto abbini, Dio Santissimo, tecnologia, comfort e abitabilità. Tuttavia, attenzione. Perché il vero fiore all'occhiello dell'Atlantis, tu lo hai già capito, è la copertura del pozzetto. Come su un'auto sportiva, la capote è completamente integrata nella struttura in vetroresina e si apre a ventaglio grazie a un meccanismo che non ti so neanche a spiegare. Tu mi stai per dire, Delfin, che tutte queste dotazioni non hanno nulla da invidiare a imbarcazioni di maggiori dimensioni. E invece alla fine è proprio questa la profonda sfida lanciata da questo yacht. Stufarsene? Presto, regalarlo alla ciurma e andare a comprarsi una barca ancora più grande, perché lusso e comodità, cara la mia Vivian, non sono una questione di misure, né di prezzo, ma di mentalità. No, in macchina al porto non ci posso andare perché è successo un casino. Dentro alla mia Maserati ho fatto ficcare per sfizio una Bugatti Veyron 16.4, foderata di Kashmir, sì, con due o tre pallini, un disastro di lamiere. È vero, ti chiami Monique, però cerca, ti prego, di non contraddirmi, che mi viene un fastidio alla cervicale se vengo contraddetto che mi costringe a un trattamento beauty all'Uvafen ispirato ai più misteriosi segreti olistici fatto di legno, pietra, fiori di loto e cespugli di erbe aromatiche in cui, se mi gira, posso defecare. Sì, Françoise, hai capito benissimo. No, non sto calmo, ci defeco. Così come posso defecare nella mia Bugatti foderata di Kashmir, che se ci trovo solo un altro pallino, non fosse altro che un'idea di pallino, me ne torno a casa nella mia reggia bizantina dagli spazi cartesiani dei soffitti altissimi e inizio a spaccare tutto quanto con la mia mazza da golf d'oro zecchino, con quel manico scomodissimo cesellato di diamanti. Che questo manico mi sta sommessamente sulle palle, non si può capire quanto io detesti questo manico perché è un manico proprio di una scomodità, mi si deve credere senza pari. Mi dà un fastidio difficile anche solo da raccontare, un fastidio colossale che proprio questo manico mi si permetta, è un manico di questa minchia che non ve lo potete neanche immaginare. Io, lo schifo, mi manda dai matti e sfondo, sorvolando sulla somma scomodità del manico, tutto quello che c'è da sfondare. Nella fattispecie, per prima cosa, le opere di Warhol, Schnabel, Botero e Klee che ho comprato, ma che mi hanno sempre fatto cacare, perché ho talmente tanti soldi che posso dire che Botero è un ciarlatano e a cena la gente mi dà ragione perché vuole mangiare e sa che se si indigna, poi magari io perdo il controllo e li prendo a pedate. Sì, cara la mia Brigitte, una volta l'ho fatto. Ero atterrato a Monte Carlo con il mio jet privato Falcon 2000, planando su quella provinciale cittadella con la stessa delicatezza con cui la sera appoggio la testa sul cuscino di seta e ho raggiunto, ma devo dire che ero già di pessimo umore, tutti quanti gli amici al bar American, di cui possiedo il terzo e ultimo piano. E alla seconda bottiglia di Perrier Jouët Belle Époque, dal colore oro pallido e finissimo perlage, tostato, vanigliato, al naso gentile, fresco, floreale, delicato, che spesso mi diverto a versare sui tappeti persiani, così, senza motivo, ho semplicemente dato di matto perché mi stava annoiando. E ho preso tutti a calci. Ho preso a pedate Romeo d'Adorno d'Afflitto, ho preso a pedate Agnese Aguselli e Eroldi Albani, ho preso a pedate contemporaneamente Alberto Aldobrandeschi, Coppola di Gallicchio e Giovanna Ferrero de Gubernatis Ventimiglia. A Sofia Bagatti Valsecchi Ballero Barbaro mi sono limitato a sputargli, mentre ad Andrea Arborio Mella dell'Ariamone ho dato una testata davanti al suocero Arnoldo Boiardo Arborea Bolagnini e a sua moglie Giulia Brivo di Pavia Broglia Brunendo de Ofreducci, cui poco prima avevo messo le mani addosso davanti alla cugina diciottenne, diamanti imperiali, Zimbardi, Gualandi, Cortevecchia, sposata Arduin di Gallese, De Mogiana, Colloredo, Ciocchi dal Monte Cisa, Asinari, Di Cresi, Filomano, Clerici, sì? Sì? Che c'è? Non ho capito. No, non stavo parlando da solo, stavo pensando a una cosa. Ah, devo rientrare. Di già. Già è finita l'ora d'aria? Ok. Ok. Vengo. Niente. Buonanotte.